Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, la notizia da cui partiamo oggi è arrivata poco fa e recita testuale: energie rinnovabili nell'UE, l'eolico supera l'idroelettrico. Che cosa significa l'eolico? Dunque, le grandi pale che abbiamo visto crescere anche e innalzarsi sul nostro territorio rappresentano sempre di più una fonte appunto rinnovabile di energia, tanto da diventare la terza principale fonte di produzione di energia nell'Unione Europea, con il 15,6% della capacità installata. I dati appunto sono arrivati questa mattina nell'ultimo rapporto dello European Wind Energy Association, secondo cui attualmente il vento potrebbe produrre 315 terawatt e coprire l'11% del consumo complessivo di elettricità nell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo intanto lavora sulla riforma del sistema di riconoscimento del consumo energetico. Di che si tratta? In sostanza, le etichette le conosciamo benissimo, soprattutto le notiamo nei negozi di elettrodomestici o quando si tratta di valutare, acquistare una casa, da F o chissà dove fino alla famosa A. Solo che nel corso degli ultimi 5 anni e mezzo, la A è diventata A+, A++, A++. Quindi si arriva a sfondare letteralmente la scala. Allora, a livello di Parlamento Europeo si sta lavorando per mettere mano a questa problematica. Tra chi ci lavora c'è Dario Tamburrano, 46 anni, romano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Allora le abbiamo chiesto un po' come procede questo lavoro di organizzazione. Quindi ogni gruppo di prodotto ha la sua etichetta, cosa che porta anche a una confusione, perché le scale nel frattempo sono state incrementate, cioè è apparsa dal 2010 in poi la classe A+, A++, A++, cosa che non fa percepire al cittadino nel momento dell'acquisto che la differenza tra una classe A e una classe più equivale alla differenza tra una classe A e una classe B, sembra un qualcosa in più, mentre in realtà la differenza è notevole. Quindi si tende, dato il maggiore costo delle classi A+, A++, eccetera, eccetera, si tende comunque a rimanere confinato alla classe A. In molti gruppi di prodotti, come nel caso delle lavatrici e dei televisori, tra l'altro, le classi al di sotto della B sono praticamente scomparse, quindi c'è stato uno spostamento verso l'alto che è un successo, ma bisogna mettere ordine in maniera tale che questa etichetta, che ha contribuito molto all'acquisto di prodotti più efficienti, quindi a migliorare la bolletta elettrica delle famiglie, e rimanga comunque efficace per l'obiettivo che si propone. Insomma, bisogna saper leggere, e per fare questo è necessario riscrivere appunto quella che è di fatto la scala. Dario Tamburrano, tra l'altro, è il rapporteur di questo regolamento. Sul suo blog dariotamburrano.it trovate parecchi approfondimenti sulla questione. Via libera intanto ai nuovi test su strada per le emissioni auto dal 2017, ma anche per quelle nel settore acciaio, dove interviene la Commissione. Emissioni e ambiente. La Commissione fa passi concreti per la riduzione di quelle su strada. Dopo le frodi e gli scandali degli ultimi mesi legati al caso Volkswagen, l'Eurocamera ha accelerato il processo di revisione di quelle delle auto, introducendo una nuova tipologia di test in cui le emissioni sono misurate su strada e non in laboratorio, per avere una maggiore accuratezza dei dati. Il presidente della Commissione Ambiente, Giovanni Lavia. È stato deciso di tagliarle, ma è stato anche deciso che le emissioni vanno misurate in condizioni reali, cioè quando la macchina cammina su strada, quindi quando fa curve, quando c'è attrito, quando accelera, quando frena, non in condizioni ideali in laboratorio, stando sui rulli e senza attriti. Mediamente inquina 4 volte di più degli 80 microgrammi che emette in condizioni di laboratorio, per cui ne emette 320. E allora in Europa si è deciso che da qua al 2017, al settembre del 2017, queste auto in condizioni reali su strada non dovranno emettere 320 microgrammi come emettono adesso, ma ne dovranno emettere 168. Sollecitazioni arrivano anche sul fronte del settore dell'acciaio, dopo il monito lanciato alla Commissione Europea nella lettera inviata dai 6 ministri europei responsabili del settore in Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Belgio, Lussemburgo. Ma anche qui la Commissione sta agendo. Il principio è: chi inquina paga. È stato fissato un mercato della CO2 e chi più emette CO2 deve pagare di più rispetto a chi non inquina. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto, noi ci risentiamo domani intorno alla stessa ora. Europa 24. in collaborazione con Euronet Plus.